Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Ebbero un tempo splendido per Box Hill e propizie a una piacevole scampagnata furono tutte le altre circostanze esterne di organizzazione, distribuzione dei posti e puntualità. Il signor Weston provvide a tutto, agendo efficacemente da tramite fra Hartfield e la canonica, e ognuno arrivò a tempo. Emma e Harriet partirono insieme, Miss Bates e la nipote con gli Elton, i signori a cavallo. Col signor Woodhouse rimase Mrs. Weston. Non ci mancava che d'essere allegri, una volta giunti a destinazione. Vennero percorse 7 miglia pregustando il piacere, e ognuno scoppiò in esclamazioni di meraviglia al primo arrivo. Ma tutto sommato era come se mancasse qualcosa. C'era un languore, una mancanza di brio, uno scarso affiatamento, qualcosa che non si riusciva a cacciare. Ci si disperse in troppi gruppi. Gli Elton passeggiarono insieme. Mr. Knightley si occupò di Miss Bates e Jane. Emma e Harriet appartennero in esclusiva a Frank Churchill, e il signor Weston cercò invano di armonizzare meglio il tutto. Sembrava tutta prima una divisione accidentale, ma in realtà non cambiò mai sensibilmente. Non che gli Elton mostrassero ritrosia a mescolarsi con gli altri e ad essere quanto potevano cortesi, ma in tutte e due le ore passate sulla collina parve regnare un principio di separazione fra i gruppi, troppo forte perché la bella vista o la colazione fredda o l'amabilità di Mr. Weston lo cancellassero. Da principio Emma non provò che noia. Non aveva mai visto così silenzioso e svagato Frank Churchill. Non diceva nulla che fosse degno d'essere ascoltato. Guardava senza vedere, ammirava senza gustare, ascoltava senza sapere di che si parlava. Mentre lui era così grigio, non era da stupirsi che altrettanto grigia fosse Harriet, ed erano entrambi insopportabili. Meglio andarono le cose quando tutti si sedettero, molto meglio a suo gusto, perché Frank divenne loquace ed allegro e si occupò soprattutto di lei. Qualunque attenzione particolare si potesse usare, le fu usata. Divertirla e riuscirle gradito sembrava tutto quanto gli importasse. Ed Emma, lieta di rianimarsi e non spiacente d'essere blandita, fu come lui gaia e disinvolta, e gli diede l'amichevole incoraggiamento e il permesso di mostrarsi galante, che mai gli aveva dato nel primo e più corroborante periodo della loro amicizia, ma che ora non significava nulla, sebbene agli occhi di molti dei presenti dovesse assumere l'aspetto che solo la parola inglese flirt esattamente definisce. Mr. Frank Churchill e Miss Woodhouse hanno fatto un gran flirtare. A questa frase si esponevano apertamente come alla possibilità che fosse trasmessa per lettera a Maple Grove da una signora o in Irlanda da un'altra. Non che Emma fosse gaia e spensierata per felicità vera, lo era piuttosto perché si sentiva meno felice di quanto si fosse aspettata. Rideva perché era delusa. Eppure, essendogli grata delle sue attenzioni e ritenendole tutte molto giudiziose, sia che fossero ispirate da amicizia e ammirazione, sia che si riducessero a uno scherzo, sentiva che non le riconquistavano il cuore. Continuava a vedere in lui soltanto l'amico. «Quanto le sono grato», disse lui, «di avermi consigliato di venire. Non fosse stato per lei avrei perduto tutta la gioia di questa scampagnata. Ero deciso ad andarmene». Sì, era molto di malumore, e non so perché, se non per essere arrivato troppo tardi per le fragole migliori. Le sono stata mica più gentile di quanto meritasse. Ma lei è stato umile, mi ha caldamente pregato di ordinarle di venire. Non dica che ero di malumore, ero stanco, il caldo mi aveva sfiancato. Oggi fa più caldo, non per i miei nervi, oggi sto benissimo. Sta benissimo perché è sotto controllo. Il suo controllo, sì. Forse mi lusingavo che dicesse proprio questo, ma parlavo di autocontrollo. Ieri, in un modo o nell'altro, aveva rotto gli argini, era sfuggito al proprio controllo. Ma oggi è tornato in sé e poiché non posso sempre starle accanto, è meglio supporre che il suo carattere sia sotto il controllo suo piuttosto che sotto il mio. Il risultato è lo stesso. Non posso avere autocontrollo senza un motivo. Mi parli o no, lei mi ordina e può star sempre con me. C'è sempre. Le gravi meditazioni di Emma non furono interrotte mentre tornava a casa, ma entrando in salotto trovò chi doveva riscuoterla. Mr. Knightley e Harriet erano arrivati durante la sua assenza ed erano seduti insieme con suo padre. Mr. Knightley si alzò subito e in modo decisamente più grave del solito disse: «Non sarei partito senza vederla, ma ho poco tempo da perdere, perciò ora me ne vado. Mi reco a Londra per passare qualche giorno con John e Isabella. Ha nulla da mandare o dire a parte gli affettuosi saluti che nessuno porta? Nulla. Ma non è una decisione improvvisa? Sì, piuttosto. È poco che ci ho pensato». Emma capì che non li aveva perdonato. Non era lui. Tuttavia, pensò, il tempo gli avrebbe detto che dovevano ancora essere amici. Mentre era lì in piedi, come deciso ad andarsene, ma non andandosene, Mr. Woodhouse cominciò le sue domande. «Beh, cara mia, sei arrivata senza incidenti. E come hai trovato la mia degna vecchia amica e la figlia? Immagino che devono aver gradito molto la tua visita. Come le ho detto, Mr. Knightley, la cara Emma è andata a trovare Mrs. e Miss Bates. È sempre così piena di attenzioni per loro». A quest'ingiusta lode Emma arrossì e con un sorriso e una scrollata di testa che dicevano molto, guardò Mr. Knightley. Fu come se di colpo nascesse in lui un'impressione favorevole, come se gli occhi di Mr. Knightley assorbissero dai suoi la verità e quanto era avvenuto di buono nei suoi sentimenti fosse colto al volo e apprezzato. La guardò con profonda simpatia. Emma ne provò una grande gioia e ancor più un momento dopo a un piccolo gesto di non comune amicizia da parte sua. Le prese la mano. Che non fosse stata lei la prima a farlo non poteva dire, forse l'aveva offerta. Ma le prese la mano, la strinse e certo fu tentato di portarla alle labbra quando, per chissà quale bizzarria, improvvisamente la lasciò. Perché sentisse questo scrupolo, perché cambiasse idea quando ormai tutto era fatto, Emma non poté capire. Sarebbe stato più saggio, pensò, non fermarsi. Comunque l'intenzione non era dubbia, e sia che in genere i suoi modi fossero poco galanti, sia per qualche altro motivo, Emma pensò che nulla più gli si addiceva. Aveva in lui un carattere così semplice e tuttavia così dignitoso. Non poteva ripensare a quel tentativo senza esultanza. Era un segno di perfetta amicizia. Mr. Knightley li lasciò subito dopo, sparito. Partiva sempre con l'alacrità di uno spirito alieno da incertezze e dilazioni, ma questa volta parve nella sua scomparsa più improvviso del solito. Emma non poteva certo rammaricarsi d'essere stata da Miss Bates, ma avrebbe voluto essersi congedata 10 minuti prima. Avrebbe avuto molto piacere di parlare con Mr. Knightley della sistemazione di Jane Fairfax. Né poteva rammaricarsi che egli andasse a Brunswick Square, perché sapeva quanto la sua visita sarebbe stata gradita, ma sarebbe potuta avvenire in un momento migliore e averlo saputo prima sarebbe stato più piacevole. Tuttavia, si erano lasciati ottimi amici. Non poteva ingannarsi sul significato della sua espressione e di quella sua galanteria rimasta incompiuta. Tutto tendeva a rassicurarla che aveva pienamente riconquistato la sua stima. Era rimasto lì mezz'ora. Peccato non essere rientrati prima. Nella speranza di distrarre i pensieri del padre dal lato sgradevole della partenza di Mr. Knightley per Londra e dalla subitaneità di questa decisione, oltre che dal fatto che ci andasse a cavallo, tutte cose che sapeva per lui deprecabili, Emma riferì le notizie di Jane Fairfax e quanto si attendeva circa l'effetto di tale comunicazione si dimostrò esatto. Fornì loro un'utilissima alternativa che lo interessò senza turbarlo. S'era ormai adattato all'idea che Jane assumesse un posto di governante e poté parlarne serenamente. Ma la partenza di Mr. Knightley era stata un colpo mancino. Il giorno dopo, notizie venute da Richmond cacciarono in secondo piano qualunque altra cosa. Un espresso indirizzato a Randalls annunciò la morte di Mrs. Churchill. Sebbene il nipote non avesse avuto particolari ragioni per affrettare il ritorno a causa di lei, la povera donna non era sopravvissuta più di 36 ore al suo arrivo. Un attacco improvviso, di natura diversa da quella che il suo stato generale lasciava prevedere, l'aveva portata via dopo breve lotta. La grande Mrs. Churchill non era più. La notizia fu accolta come è doveroso che tali notizie si accolgano. Ognuno mostrò un certo grado di serietà e di dolore, di tenerezza verso la defunta e di sollecitudine per i rimasti in vita, e in tempo ragionevole curiosità di sapere dove sarebbe stata sepolta. Goldsmith dice che quando una bella donna si abbassa alla follia, non ha da far altro che morire, e quando si abbassa a essere sgradevole, la cosa non è meno raccomandabile per distruggere una brutta fama. Mrs. Churchill, dopo essere riuscita antipatica per almeno 25 anni, finì per godere di una pietosa indulgenza. In un punto fu pienamente giustificata. Non si era mai voluto ammettere che fosse seriamente ammalata. La morte l'assolse da tutte le fantasticherie e l'egoismo di molti mali immaginari. Povera Mrs. Churchill, si diceva, senza dubbio aveva molto sofferto, più di quanto si fosse supposto, e una continua sofferenza inasprisce il carattere. Era una triste fine, un brutto colpo, con tutti i suoi difetti. Che cosa avrebbe fatto senza di lei, Mr. Churchill? Per Mr. Churchill la perdita sarebbe stata davvero terribile. Mr. Churchill non se ne sarebbe mai rimesso. Perfino il signor Weston scrollò la testa e prese un'aria solenne e disse: «Ah, povera donna, e chi l'avrebbe mai pensato?» E decise di tenere il lutto più decoroso possibile. E la moglie sospirò, abbandonandosi a considerazioni morali, di sincera pietà e di solido buonsenso. Fra i primissimi pensieri di entrambi furono le conseguenze che ne sarebbero derivate a Frank. Anche Emma ci pensò subito. Il carattere di Mrs. Churchill, il dolore del marito, la mente di Emma vi indugiò con reverenza e compassione, per fermarsi poi con animo sollevato sulle reazioni di Frank, sul beneficio che ne avrebbe tratto, sulla libertà che gliene sarebbe derivata. Vide in un colpo solo tutto il bene possibile. Ora un attaccamento per Harriet Smith non avrebbe più incontrato ostacoli. Non più legato alla moglie, Mr. Churchill non era temuto da nessuno. Uomo arrendevole e mite, il nipote l'avrebbe convinto a fare qualunque cosa. Rimaneva solo da augurarsi che il nipote sentisse davvero quell'attaccamento, come, con tutta la sua buona volontà, Emma non era affatto certa che per ora fosse il caso. Harriet si comportò a meraviglia in tale occasione, con grande autocontrollo. Per quante più luminose speranze potesse nutrire, non ne tradì nessuna. Ed Emma ebbe la soddisfazione di osservare come il suo carattere si fosse indurito ed evitò ogni allusione che potesse minacciarne la stabilità. Parlarono quindi della morte di Mrs. Churchill con mutuo riserbo. Giunsero a Randalls brevi lettere di Frank, comunicanti tutto ciò che della loro situazione e dei loro progetti immediatamente importava. Il signor Churchill stava meglio di quanto ci si potesse aspettare e il primo passo dopo la partenza del funerale per lo Yorkshire sarebbe stato di recarsi da un vecchio amico di Windsor al quale da 10 anni Mr. Churchill prometteva di far visita. Per Harriet non c'era nulla da fare al momento e da parte di Emma non erano possibili che auguri di buona fortuna per l'avvenire. Più urgente era mostrare attenzioni a Jane Fairfax, il cui orizzonte si chiudeva, proprio mentre si apriva quello di Harriet e i cui impegni non consentivano ritardi a chiunque, lì ad Highbury, desiderasse mostrarlesi gentile. E per Emma era ormai un desiderio ossessionante. Non provava rammarico più forte che d'essere stata fredda con lei. e la stessa persona che per tanti mesi aveva trascurata era ora quella sulla quale avrebbe voluto riversare ogni premura o simpatia particolari. Voleva esserle utile, voleva mostrare di apprezzare la sua compagnia, attestarle considerazione e rispetto. Una mattina, circa 10 giorni dopo la morte di Mrs. Churchill, Emma fu chiamata a Pian Terreno per ricevere il signor Weston, che non poteva trattenersi più di 5 minuti e desiderava vivamente di parlarle. Si trovarono in salotto e, chiestole appena appena come stava nel tono naturale della sua voce, l'abbassò immediatamente per dire, in modo che suo padre non sentisse: «Può venire a Randalls in qualunque ora della mattina. Lo faccia se possibile. La signora Weston desidera vederla. Deve vederla ad ogni costo.» «Non sta bene?» «No, no, affatto, solo un po' agitata. Avrebbe ordinato la carrozza per venire qui, ma deve vederla a 4 occhi. E questo, sa», spiegò accennando al padre, «può venire?» «Ah, certo, subito se non le spiace. È impossibile rifiutare al modo come me lo chiede. Ma che cosa può essere successo? Davvero sta male?» «Mi creda. E non domandi altro. Lo saprà al momento buono. La faccenda più incomprensibile. Ma zitti, zitti!» Indovinare che cosa tutto ciò significasse era impossibile anche per Emma. Qualcosa di molto importante sembrava annunciato da tutto il tono di lui. Ma poiché l'amica stava bene, Emma cercò di non crucciarsi e, stabilito col padre che sarebbe uscita a fare un po' di moto, lei e Mr. Weston si trovarono ben presto diretti a passo rapido a Randalls. «Beh, mia cara», disse lui mentre entravano, alla moglie, «l'ho portata e ora spero che non tarderai a rimetterti. Bisogna che vi lasci sole. Non serve a nulla ritardare. Non sarò lontano se avete bisogno di me.» Ed Emma lo sentì chiaramente aggiungere a voce più bassa prima di lasciare la stanza: «Ho mantenuto la parola, non ne ha la minima idea.» La signora Weston aveva un'aria così sofferente e turbata che l'inquietudine di Emma crebbe, e appena furono sole disse con ansia: «Ma che succede, cara? Immagino che sia successo qualcosa di spiacevole. Mi dica subito di che cosa si tratta. Ho fatto tutta la strada con l'animo sospeso e non c'è nulla che tutte e due odiamo più della sospensione. Non permetta che la mia duri di più. Le farà bene parlare di ciò che l'angustia, qualunque cosa sia.» «Davvero non te lo immagini?» domandò con voce tremante la signora Weston. «Non puoi, cara Emma, non puoi indovinare che cosa ti toccherà di sentire.» «Solo che riguarda Frank Churchill.» «Esatto, riguarda lui e ti dirò subito», disse riprendendo il lavoro e decisa, si sarebbe detto, a non alzare gli occhi. «È stato qui proprio stamane per una faccenda davvero straordinaria. Non ci sono parole per esprimere la nostra sorpresa. È venuto a parlare al padre di una questione, ad annunciare un legame.» Si fermò a prendere fiato. Emma pensò prima a sé, poi ad Harriet. «Più che un legame, in realtà», riprese la signora Weston, «un impegno, un vero e proprio fidanzamento. Oh, che cosa dirai, Emma? Che cosa diranno tutti quando si saprà che Frank Churchill e Miss Fairfax sono fidanzati? Ah, sì, fidanzati da molto tempo.» Dallo stupore, Emma per poco non balzò in piedi e sgomenta esclamò: «Jane Fairfax! Buon Dio, ma parla sul serio, Mrs. Weston? È proprio questo che vuol dire?» «Hai ragione d'esserne stupefatta», rispose la signora Weston, aspettando, sempre senza alzare gli occhi e parlando, che Emma avesse tempo di riprendersi. «Ne hai ben ragione, ma è proprio così. C'è fra loro, fin da ottobre, un fidanzamento solenne, contratto a Weymouth e mantenuto segreto. Nessuno che lo sapesse oltre a loro, né i Campbell, né la famiglia di lei, né quella di lui. È così stupefacente che, sebbene perfettamente convinta della realtà del fatto, io stessa quasi non ci credo, non posso crederci.